Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza, ma mica da rompere coglione al centro come voi, eh. Presidente, noi chiediamo, e le chiediamo in modo ufficiale, le dimissioni del ministro Poletti, e non si può dire che anziché fare un curriculum bisogna andare a giocare a calcetto. Due ore di confronto e dialogo con i ragazzi, del quanto valga insieme al sapere, che è ovviamente essenziale, anche l'essere, cioè le cose che le persone fanno, il volontariato, il servizio civile, tutte le cose che si fanno. Studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Mi piacerebbe vedere il ministro Poletti giocare a calcetto, correre leggiadro in un campo da calcetto. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Per questo motivo noi regaliamo, presidente, al ministro Poletti il pallone. E di togliere queste cose che... Presidente, quel pallone che serve al ministro Poletti per non essere un pallone gonfiato davanti ai cittadini italiani. Senatore Centinaio. È ovvio, doveva finire come tante delle cose d'Italia in burletta. E Ale, la burletta del calcetto del ministro Poletti, la burletta del calcetto del Poletti. Vi piace? Sempre con la risatina sulla faccia. Ma chi, presidente De Luca? Chi? Noi? Io? Io, certo, io mi sveglio sempre con la risatina sulla faccia. Marianne Satrapi, una risata ci salverà. Cocco bello. Vabbè, presidente, vieni tu a condurre, anzi, quando verrai tu a condurre 24 mattino, ti sveglierai con l'umore che ritieni più giusto e l'umore che ritieni più consono. Dovrei mandargli una bottiglia di spumante, anzi di champagne. Ma chi? A Poletti? A Centinaio della Lega, che hanno battagliato idealmente in questo... non è che erano lì a rispondersi, ma abbiamo costruito con Lorenzo Lespoli questa copertina, così come... Vabbè. Tutti i figli di papà. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Queste fesserie. Vabbè. Qui abbiamo ospiti, signori, oggi alle 6:34 minuti, questo è 24 mattino. Con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Veronica, ascolta, ti sei fatta dare il numero dal dottor Nespoli per il karaoke? Perché qui è una settimana che ho il telefono in mano, ma non squilla. Fammi sapere, ciao! Veronica Gentili, buongiorno. Ma nessuno mi ha dato il numero. Lo so. Fai presente a Lorenzo Nespoli che mi deve mandare il numero immediatamente, così so. Arriva la convocazione. Un incapace Lorenzo Nespoli, sa. D'altronde questo, uno questo negato, negato a giocare a calcetto verrà cacciato a sangue. Ma lui si disturba anche quando sta a 100 metri di distanza. Non è questa chiattona. Non lo so. Non lo so, c'è una che disturba, si riferiva forse a te, cara Veronica. Caro, sono snella come un fuscello. Ah, eccola lì, snella come il fuscello. Snella come il fuscello è la prossima copertina di Vanity Fair, si sa. E salutiamo il nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno. Sei pronto? Buongiorno. Le foto sono tutte a posto? Tutte già pronte? Assolutamente sì. Sì, le foto, poi photoshoppiamo un po', perché insomma dobbiamo Luca, digli che con me non c'è nulla da photoshoppare. Eccola. Secondo, ti volevo proporre una copertina con io e la sciocchina come Chiara e Fedez, va bene? Io ci sto, va bene. Ha lasciato agghiacciata anche me mentre lo dicevo. Mi è piaciuta molto questa proposta. Mi piace molto questa proposta. Io ci sono, ok. Aggiudicato. Devi farti un paio di piercing. Aggiudicato. Chiedi alla redazione, a Nespoli, se ti dà una mano. 2-3 piercing. Va bene, aggiudicato. Io non so come, ma sono già lì. Comincia a prepararti, perché finalmente l'abbiamo convinto, Luca. Va bene. Salutiamo Veronica Fuscella, come ci racconta un ascoltatore. Veronica Fuscella. Allora, sono le 6:36 minuti. Vi vedo carichi, vi sento carichi. Il Parlamento può aprire. Signori, no, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma dobbiamo anche noi affrontare questa cosa. Ragazzi, ma perché viene tutto messo in burletta? Adesso questa storia del calcetto, che è stata un'uscita chiaramente infelice di Poletti, che adesso racconta che il calcetto è la metafora della vita. Io, a parte che Luca, io con questa parlata Emiliano lo farei parlare sempre, mi piace talmente tanto che va bene. Piace sentirlo. Sì, esatto. Sì, sì. Però Franceschini, un po'. Franceschini, un po' meno, però un po' meno, non è proprio. Franceschini è Ferrarese. Ah, è Ferrarese, giusto. Ferrarese. No. Però, vabbè, l'abbiamo buttata in burletta. Gli regalano il pallone di calcetto nel Parlamento, risse, nel senso risse verbali. E Ale, gliel'avrei tirato. Tu gliel'avresti tirato. Ma sì, diciamo, cosa voleva dire secondo te Poletti, che bisogna anche appunto conoscersi? Voleva dire, la traduzione è: sono un coglione. No, dai! Vedi, no. Che Luca è carico veramente stamattina. Addirittura. Voleva dire questo, in italiano, esatto. Sì, ma infatti, perché cosa doveva dire il ministro? Semmai doveva dire: purtroppo, questo è 2 giorni che lo dico, purtroppo questo è un paese in cui il lavoro si trova tra gli amici, tra i conoscenti. La sciocchina finalmente disse qualcosa di sensato. Ecco. Ci ho scritto un pezzo proprio su questo, cioè in realtà lui ha detto quello che tutti sappiamo, perché il fatto che sia necessario fare public relation, mondanità, che se sei un po' salottiero e riesci in qualche modo ad ingraziarti coloro per i quali vorresti lavorare, è più semplice ottenere un posto di lavoro. Ma questo te lo può dire tuo zio Mario, non te lo può dire il ministro del lavoro che dovrebbe essere colui che garantisce il fatto che tu, chiunque sia, non debba avere un rapporto privilegiato. Sì, no, dovrebbe dire il contrario, dire: purtroppo, signori, è così, ma stiamo lavorando per rendere il paese diverso e fare in modo che il curriculum, che per carità non è che si giudica le persone da un pezzo di carta. Tu, Luca, quante persone hai assunto da un pezzo di carta? Nessuna, spero, perché non è che poi le persone le devi... No, da un pezzo di carta nessuna, però il pezzo di carta è il primo... È il biglietto da visita, non si può prendere così alla leggera, soprattutto se hai un figlio che probabilmente non ha nemmeno dovuto giocare a calcetto. Quindi, È grave. Soprattutto se sei nella sua posizione, con la sua storia, proprio non lo puoi dire. Si racconta di un Gentiloni un po', a questo almeno racconta oggi i giornali, come dire, che ha allargato le braccia, ha detto: mamma mia, anche questa. Adesso lui sembra non però... avere proprio consapevolezza del fatto di essere il ministro del lavoro. Sì. Quindi si lascia prendere la mano. Poi la verità è che lui è fomentatissimo di questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro, sì, che pensa essere una genialata dovuta al suo ministero in qualche modo. Che e voglio dire, sulla carta è una genialata, cioè far studiare, far studiare. So, ma sì, far insomma... lavorare, far conoscere il mondo del lavoro agli studenti è una genialata sulla carta. Le polemiche che disse, di tutte le cose che disse lui dei 3 mesi estivi, che erano troppi perché i ragazzi vagabondano per le strade, ecco, tutte queste cose, già lì non aprirò la polemica. È un po' un gaffeur, devo dire, eh? È un po' un gaffeur. L'ho chiamato il collezionista di gaffe, infatti. È un gaffeur. Perché proprio una dopo l'altra. Ma che devi fare? Che fai? Ma t'ho dettato io il pezzo, non ho capito. Ma hai chiamato ieri e t'ho detto... Cioè, non lo so. Ero in crisi di ispirazione, allora ho chiamato la sciocchina e ho detto mettiti un attimo qui, io scrivo. Siamo già a 3, fermati, con i sciocchini. Siamo già a 3. Però coglione non l'ha scritto. No, coglione non l'ha scritto, No, perché non avevo chiamato. Non ha sentito Lucadini, La prossima volta faccio un censimento telefonico prima. Sì, e esatto. Poi completo il pezzo. Signori, comunque la politica è in una fase di impazzimento totale. Volete la prova certificata che siamo all'impazzimento totale? Allora, devo fare una metafora calcistica. E qui così ci escludiamo una dei due ospiti. È fuori una. Allora, ti ricordi, caro Lucadini, tu ti ricordi Mazzola Rivera? Se ti dico Mazzola Rivera ai mondiali del Brasile. Tu ti ricordi, nel mondiale del Messico, quelli vinti dal Brasile, mondiale 70, no? Ecco, vediamo. Veronica, Mazzola Rivera, mondiali Messico 70, non eri nata, ma anch'io non ero nato, se per questo, di ma qualche mese. Sciocchina, però, non eri nato. No, io non ero nato, sono nato nel dicembre del 70, quindi... Mondiali Messico 70, Mazzola Rivera, che cosa ti suscita questa immagine? No, per favore. Ma perché? La famosa staffetta. Sai cos'è la staffetta nel calcio in questo caso? Eh beh, vado a deduzione. Uno si passa la palla che arriva alla porta, no? Luca, è bellissimo prenderla in castagna. Lei che fa quella saputella su tutto. Giocavano un tempo a testa, la staffetta. Ragazzi, siamo all'impazzimento della politica. Oggi ho letto sulla stampa questo. Il centrodestra, Berlusconi, pur di andare al potere, propone questo, alcuni pontieri, la staffetta Palazzo Chigi. Comincia Berlusconi e a metà legislatura mettiamo Renzi. No, ma ragazzi, ma Luca, ma è tutto vero? L'ho letto sul giornale, sul giornale, sì, vabbè, la stampa. Anch'io posso proporre questa cosa, cioè, non so, metà legislatura io e metà un canguro, però voglio dire, cioè, non lo so, ma giuro, proporre, ma piace non... di più. La pazza idea della staffetta spunta per mettere pace a destra, cioè per fare in modo che il centrodestra si unisca, per far capire a Salvini, a Meloni, dai, governiamo metà legislatura e poi metà la lasciamo a Renzi. A parte che dovrebbe farli arrabbiare di più, perché loro, no, che sono anti-renziani, Salvini, Meloni, il patto del Nazareno a Borro, dovrebbero arrabbiarsi il triplo. Ma infatti per me è una cosa talmente pazza che non lo so. Va bene, dai, la politica io la vorrei... Ah, ma c'è anche la Boldrini che parla di Poletti? Attenzione, la Boldrini, Ci si chiede se non fosse una battuta mal riuscita, effettivamente. Però io penso che sul lavoro non c'è nulla di cui scherzare. Ecco, infatti. Lasciamo stare. Chiudiamo con questa pietra tombale. Chiudiamo la questione. No, signori, io voglio parlare un attimo. Vabbè, tu, Luca, vuoi dire qualcosa di politica? Sulla politica c'è qualcosa che ti ha colpito? No, niente. No, la battuta, io vi dico solo la battuta del giorno. La battuta del giorno è Bersani che ha intervistato la Repubblica all'accusa Renzi. Ha detto cercate le poltrone, ha detto ci rivolgeremo a poltrone e sofà, gli artigiani della qualità. E giuro. Poi dici che non mi deve stare simpatico. Guarda che su Bersani stai lì fermo perché... Non gli è abbastanza. No, state lì fermi perché abbiamo iniziato da ieri una rubrica che poi faremo, che approfondiremo, che è straordinaria. Ma voglio entrare un po' dai, sporchiamoci un po' le mani con questo fattaccio di cronaca. Dobbiamo anche io dico una cosa, forte, la dico soprattutto a Luca Dini. Noi l'abbiamo già raccontato una volta, ci siamo conosciuti tanti anni fa in America, quando abbiamo fatto anche giornalisticamente parlando una battaglia per portare avanti i diritti del condannato a morte Derek Rocco Barnabei. Quindi insomma la nostra storia giornalistica parla chiaro, siamo garantisti anche facendo una campagna giornalistica in difesa dei diritti di una persona che era condannata a morte, eccetera. Però Luca, io ho fatto questa premessa per dire che, non lo so, cominciano a prudermi le mani quando leggo certe cose. Cioè, cioè ti viene quell'istinto veramente da ispettore Callaghan e da giustiziere della notte che sinceramente non lo so, nei confronti ovviamente nel leggere quello che hanno compiuto a questo ragazzo, così pare, perché tutti cocainizzati, tutti ma guarda, so. A me non so se fa più schifo quello che è successo, cioè sì, sicuramente mi fa più schifo quello che è successo, però è l'omertà che sì, mi fa veramente rivoltare tutto, perché non, io posso capire, succedono le cose, non è, cioè, è facile dire bisognava fermarli, bisognava, perché poi insomma, bisogna esserci nelle situazioni, e sì, immagino che, però ecco, non, quello che trovo incredibile è una specie di predisposizione all'accettazione della delinquenza e della violenza, ecco, che mi fa proprio, cioè in che paese siamo, che paese siamo? No, ma è chiaro, cioè, voglio dire, sì, dire intervenire, poi lì pare che fossero in 20 che hanno inseguito una persona, proprio l'hanno tirata fuori dal locale e l'hanno sì, però ripeto, il silenzio e l'omertà, poi alla fine, certo, alla fine parlano, stanno parlando, però, come dire, è una cosa che, cioè, dovevano parlare dopo 2 secondi, non c'è dubbio, se tu vedi uno che viene ammazzato da alcune persone, la prima cosa che fai, se non riesci a fermare quello che è successo, è parlare e dire che è stato. Non lo so, io nel leggere i profili di quello che è successo, cara Veronica, non leggere i giornali, mi monta una rabbia, una roba brutta che non dico, non la voglio esplicitare, perché per carità. Cioè, no, ma tu hai ragione. Anche perché io sono d'accordo sul fatto che l'omertà e il silenzio diventino poi in qualche modo complici di quello che accade, perché è una specie di connivenza, quindi ognuno decide che è prioritario salvaguardare se stessi, la propria incolumità, in tutti i sensi, che l'incolumità voglia dire anche avere problemi, non soltanto incolumità fisica nell'immediato. Quindi c'è, cioè, da un lato questa violenza feroce, per cui come se si fosse posseduti da una sorta di demone, e che le droghe, l'alcol slatentizzino queste cose, comunque non racconta bene, perché non è che è sempre accaduto così. Sembrano delle scene all'Arancia Meccanica. Sì, sì. No, ma poi vabbè, qui c'entra, almeno questo si capisce un po', la droga, la cocaina, il carattere forse di queste persone un po' sbandate già. E vabbè, comunque facciamo così, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Poi guardate che Bersani lo recuperiamo, perché voi non lo sapete, perché voi non mi ascoltate alle 6:30 del mattino, quando non siete in onda ovviamente. Perché? Ma abbiamo iniziato una rubrica che è molto interessante, tra poco. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... E come direbbe Bersani, meglio una purga oggi che un Alessandro Milan domani. Parla della strage di Musol, sei un guerrafondaio, sei un merdoso, Radio 24 chiuderà a brevi. Certo che Milan, in Piazza Rossa, se ci fossero giornalisti idioti come te, farebbero bene a pestarli giù un po'. Io pubblico ministero, le chiedo scusa, io sono un vecchietto, devo avvicinarsi al microfono al bocca se non lo sento. Berlusconi che al PM dice: parli al microfono che sono un vecchietto e non sento. Comunque è bello sentire l'affetto degli ascoltatori alle 6.45 del mattino. Cioè, è il ma merdoso. Ma gli ascoltatori che se io posso darti della sciocchina, sì, ma il primo che ti tocca io vado lì, ta ta ta ta ta. Esatto. Oh, brava, brava, brava. Difendi. La sciocchina non si tocca, no. Per favore. Siamo a 6 oggi, ragazzi. Oggi ho un esubero di sciocchine, però chiariamo come stanno le cose. No, no, chiariamo subito. Però va bene, e se non parli di quello, sei un connivente con gli Stati Uniti. Ma se poi non parli... voglio mandare a Piazza Rossa. Dai. A Piazza Rossa, ma a Piazza ma Rossa. Ci vada lui. Ma ormai in Piazza Rossa, cioè voglio dire, sfoggiano le Ferrari, peraltro, non c'è neanche più. Vabbè, comunque, la Piazza Rossa, che dobbiamo fare? Allora, signori, abbiamo detto Bersani, voi mi dovete aiutare perché io perdo il sonno. Allora, abbiamo iniziato da 2 giorni una nuova rubrica dopo lo psicologo di D'Alema, il premio Giachetti, che sono le metafore di Bersani. Che bellezza! Per me la metafora riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. E va bene, questa è la base dalla quale vogliamo partire. Oggi, attenzione, oggi dovete aiutarmi perché questa non mi ha fatto dormire per 3 notti di seguito, quando l'ho sentita. 3 notti di seguito che non chiudo occhio. Attenzione, siete pronti? Dovete spiegarmela. Ecco qua, Bersani. Come diceva mia nonna... Eccolo là, vai. Ce n'è da far l'orlo al Po. Ce n'è da far l'orlo al Po. Questo è il messaggio allora, Gentiloni. Allora, perché il Po è fatto d'acqua. Io questo l'ho capito, insomma, no? Però ce n'è da fare l'orlo, perché fare l'orlo con l'acqua è un po' complicato. Le metafore di Bersani sono come le versioni di greco al liceo, no? Quando ti metti lì col dizionario e dici adesso... Ce n'è da far l'orlo al Po. Io 3 notti con gli occhi a spillo, praticamente, guardare la parete. Perché ce n'è... Allora, Luca Dini, aiutaci tu. Ce n'è da far l'orlo al Po, diceva la nonna di Bersani. Sì. Immagino voglia dire. Avrai studiato, no? Immagino voglia dire che è un'impresa molto ardua. Cioè... perché l'orlo al Po. Cioè l'acqua, sì, effettivamente. Però c'è questa abbondanza anche, perché... Infatti non so anche se perché è troppo grande e quindi comunque anche l'orlo non starebbe, no? Non starebbe fermo. Quindi è una situazione più di difficoltà, mi sembra di capire. È un po'... lunghezza anche. Ah, la lunghezza. Perché... infatti, vedi, la lunghezza del Po. Quindi c'è abbondanza, cioè... abbondanza ma nel senso di difficoltà credo, svuotare il mare con un bicchiere, esatto. Ma no, ma quello è un fiume, ma avrebbe detto il mare, io non capisco, ma lui non conosce il mare, ma non mi farete dormire neanche stanotte, io lo so. Ma è di Piacenza, il mare non c'è per te, appunto, c'è il Po. Fate una chiamata al volo e gli dite abbiamo un problema. Abbiamo un problema, non lo so, mi avete... Dobbiamo smacchiare la sciocchina. Lo vedi? questa sarà l'unica vera impresa che io mi do per l'anno che viene. Smacchiare la sciocchina. Vabbè. Sono un po' in difficoltà, devo dire, mi avete aiutato ma a metà, vabbè, dai, alla prossima metafora, signori, chi lo sa, ce magari l'abbiamo messa tutta. Con la prossima andrà meglio. Allora, signori, io qui Vanity Fair, io lo so, a Luca Dini non è molto simpatico Donald Trump, e a chi è simpatico? No, meno. Chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro Donald Trump è l'ultima che ha fatto, sai cos'è? Ha detto riaprite tutte le centrali di carbone. Ma vi sembra una cosa proprio di quelle di altri tempi, col carbone, con proprio il futuro? Non funzionano, infatti non le vogliono neanche riaprire, stanno calando da sole, Vabbè. Insomma, e allora su Vanity Fair in copertina... Non c'è Veronica Gentili, ma c'è la questa settimana. Ma c'è la possibile, ma davvero è la possibile nuova candidata punta alla Casa Bianca? Intanto diciamo chi è: Amal Clooney, l'avvocato Amal Clooney, che sta aspettando 2 bambini, giusto?